Mercato Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Allora passiamo di parliamo no, no, di cose. Io rimango siccome tu ora tieni la parola. Ti do un minuto però. Non ho tempo per te. Non hai tempo. Non abbiamo tempo per ma voi. Infatti, scusami Beppe, in un minuto. No, dico. Ma io non sono democratico. Però un minuto dammelo. Ma non sono democratico sì, con voi. Sì, scusa, tu mi dai un minuto. Tu sei qui perché il tuo popolo. Se mi parli di spettacolo ti interrompo. Allora. Tu sei come qui... Gaspari, eh? Se no sei un incrocio nemmeno tra sei un incrocio tra Gaspari e la Biancofiore in questo momento. Quindi, allora. E questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, si può definire praticamente l'essenza dell'incontro, scontro che è avvenuto oggi tra il Presidente del Consiglio incaricato e consultante Matteo Renzi e il consultato leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Diciamo che da un certo punto di vista sono un incontro poco fruttuoso, poi da altri punti di vista, soprattutto di chi ha sostenuto la linea di Beppe Grillo, quindi dei suoi sostenitori, invece può essere stata diciamo la mossa giusta, il modo giusto di affrontare Renzi. Comunque, qual è invece il vostro punto di vista su questo argomento, che sarà centrale questa sera qui Effetto Notte? Naturalmente poi vi racconto nel primo quarto d'ora i fatti principali della giornata, ma questo sarà il tema centrale. Potete esprimere le vostre opinioni su cosa pensate di questo faccia a faccia o faccia in faccia, che potremo dire meglio. Ci sono due canali per le vostre opinioni, come sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure messaggi al 349-238-6666. Dopodiché vi vado prima di tutto a raccontare la giornata. Governo Renzi è ottimista, ci sono le condizioni, dice, per sabato è pronta la squadra, intanto sale al Quirinale. Le consultazioni con Grillo, scontro in diretta streaming tra il premier incaricato e il leader dei 5 Stelle che gli dice non sei credibile e lui replica esci da questo blog. Quattro senatori del movimento critici dicono che Grillo ha sbagliato con Renzi. Papa Francesco telefona a Letta, un commiato cordiale e affettuoso, dice l'ex presidente del Consiglio. Ucraina, Stati Uniti e Unione Europea avvertono siamo pronti a sanzioni, 26 le vittime negli scontri di ieri. Mafia, Raffaele Lombardo condannato a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Olimpiadi di Sochi, arriva dalla staffetta di biathlon la 7ª medaglia azzurra e intanto domani Caroline Kostner sarà in finale. Per il calcio, una serata di Champions per il Milan che sfida a San Siro l'Atletico Madrid. Partiamo quindi dalla imminente nascita del nuovo governo. Oggi, come vi dicevo, è stata una giornata molto impegnativa per Matteo Renzi, Grillo soprattutto, Berlusconi, poi adesso Napolitano. Che dice Vincenzo Miglietta? Delle energie straordinarie, al di là di come si possa giudicare. Assolutamente così. Buonasera ai nostri ciao, ascoltatori. Vincenzo. Una lunga giornata, Roberta, per Matteo Renzi, che è tuttora ancora al Quirinale. A questo punto è un faccia a faccia con quello con il capo dello Stato che sta durando da oltre 2 ore, ma il dato politico, di oggi è quello della fine delle consultazioni. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, stiamo facendo un ottimo lavoro, quindi un Renzi ottimista di arrivare a sabato, quando scioglierà la sua riserva, dovrebbe quindi a quel punto presentare la squadra di governo, il giuramento sabato, per andare poi in Parlamento per la fiducia da lunedì. Questo è un po' il quadro del lavoro in corso, ma la notizia comunque di oggi, tra l'altro, è che Renzi conferma proprio da parte del Presidente del Consiglio incaricato che si andrà a formare un esecutivo con la stessa maggioranza del governo Letta, del governo di larghe intese. Quindi, ricapitolando, possiamo ricordare che sono dentro Partito Democratico ed è scontato, Nuovo Centrodestra, Scelta Civica, Popolari per l'Italia, UDC, Centro Democratico e Socialisti, no da Berlusconi. Questo per quanto riguarda il governo che sta nascendo. Berlusconi però ha ricordato saremo pronti per la nuova stagione di riforme e possiamo ascoltare questo passaggio. Sì. Noi abbiamo dato al presidente incaricato la nostra assoluta disponibilità a lavorare insieme e a approvare in Parlamento queste riforme. Siamo invece su quella che è la gestione normale, opposizione, un'opposizione che deciderà di volta in volta, come abbiamo già dimostrato nel passato quando fummo all'opposizione sui contenuti dei singoli provvedimenti. Una Forza Italia dunque, Roberta, all'opposizione e valuterà di volta in volta l'operato del governo Renzi, all'opposizione anche Fratelli d'Italia, Lega, Sinistra, Ecologia e Libertà, e poi lo anticipavi giustamente nell'anteprima, così nel programma del No Secco di Grillo, uno streaming che forse passerà alla storia per come si è svolto, ma possiamo ricostruire lo streaming nel servizio del collega Viali. Sentiamo. Vi diciamo da subito che per quello che ci riguarda noi non vi chiediamo alcun accordo vecchio stile. Vi stai spiazzando con questa estrema gentilezza che non mi chiedi nulla, allora perché siamo venuti. Più che un confronto è stato un duello andato in onda in diretta streaming, quello fra Matteo Renzi e Beppe Grillo, un faccia a faccia durato appena 10 minuti, nel quale il leader del Movimento 5 Stelle ha interrotto in continuazione il premier incaricato, impedendogli di fatto di parlare. Non sono venuto qua a parlare di programmi, i programmi non sono in gioco. Un po' per uno, però bisogna parlare io, poi parliti, facciamo un po' per uno per correttezza. No, tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa, poi la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane ma allo stesso tempo vecchio. No, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, non è uno show. Arrivato alle consultazioni per volere degli iscritti al suo blog, Grillo ha ribadito a Renzi il no del suo movimento a qualsiasi ipotesi di dialogo, una stretta di mano fra i due ha poi messo fine allo scontro. Allora, caro Beppe, se questo era... E ti dico con gioia, ti comunico che non abbiamo nessun tipo di fiducia in te. Io non sono più democratico con una persona come te. Esci da questo blog, Beppe, esci da questo streaming. Finita, caro. È finita. Buona giornata, è stato un piacere vederti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E questa era stata la conclusione, Vincenzo, no? Sì, una conclusione quindi abbastanza scontata, ma nei toni nessuno poteva forse prevedere un epilogo del genere, ma comunque era abbastanza prevedibile quindi la posizione del Movimento 5 Stelle. Proiettandoci alle prossime ore, Renzi prenderà la giornata di domani e di dopodomani per completare la squadra di governo. Il nodo resta, Roberta, quello del Ministero dell'Economia. Per questo Renzi oggi ha visto anche il governatore della Banca d'Italia Visco, non perché si parli di Visco come ministro, ma proprio per avere delle indicazioni, per confrontarsi su quali sono le priorità economiche. Sappiamo Visco essere in continuo contatto anche con il presidente della BCE Draghi, quindi è stato fatto il punto sulle priorità del paese, forse anche sull'identikit di chi potrebbe andare al ministero di Via 27. Già, resta il grande punto interrogativo intanto. Grazie a Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Ciao, buonasera. E per l'affollamento delle carceri, il Senato ha approvato con 147 sì e 95 no in seconda lettura il decreto che introduce una riduzione controllata dei detenuti, il cosiddetto svuota carceri, che prevede tra l'altro l'ampliamento dell'affidamento in prova, uno sconto di pena ulteriore, boss esclusi ai più meritevoli questo bonus, e diventa la norma l'utilizzo del braccialetto elettronico per i domiciliari. E poi c'è una notizia che riguarda la ritenuta del 20% sui bonifici esteri, sarà restituita. Gli accordi eventualmente già trattenuti da intermediari finanziari sulla base della norma in oggetto saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli stessi intermediari. Questo è quanto afferma il Ministero dell'Economia in una nota. Spostiamoci all'estero, sempre più drammatica la situazione in Ucraina, il paese in fiamme per le proteste pro Unione Europea. In realtà la protesta in Ucraina era iniziata come pro-Europa, europeista. Adesso, a distanza di 3 mesi da quei giorni di fine novembre in cui migliaia di persone scesero in piazza contro la decisione del presidente Yanukovych di congelare un accordo di associazione con l'Unione Europea, si è trasformata questa protesta in qualcosa di diverso. Il nome della manifestazione è ufficialmente rimasto lo stesso, Euromaidan, ma l'obiettivo principale delle migliaia di dimostranti che stanno sfidando dando il potere e la polizia è un altro, cioè cacciare Yanukovych e il suo regime. Sale a 26 morti il bilancio degli scontri a Kiev e l'Unione Europea e Stati Uniti minacciano di intervenire. Cronaca ci riporta in Italia, Raffaele Lombardo è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. L'ex governatore della Sicilia era imputato anche per voto di scambio, accusa della quale è stato però assolto. E poi appalti a Palazzo Chigi, torna ai domiciliari il faccendiere ex giornalista Luigi Bisignani insieme a un generale dei carabinieri. L'uno faceva da intermediario tra il mondo degli affari e delle istituzioni e per questo si faceva pagare con false fatture. L'altro non esitava a vendere il suo ruolo all'interno di Palazzo Chigi per favorire i familiari. Luigi Bisignani e Antonio Ragusa, il faccendiere e l'ex generale dei Carabinieri, sono finiti ai domiciliari in un nuovo filone d'inchiesta nato dai racconti di Lorenzo Borgogno, ex Finmeccanica. Già alla guida del Dipartimento delle Risorse Strumentali di Palazzo Chigi, l'alto ufficiale dell'arma non aveva remora, scrive il GIP, ad alterare gare d'appalto come quella sull'informatizzazione del palazzo perché andasse all'imprenditore amico Galbusera, che doveva poi girarne parte al genero dello stesso Ragusa. Per questo un colosso come Finmeccanica accettò l'insolita partnership, si legge, con la società Italgo, proprio per le garanzie offerte dal generale, che inoltre aveva fatto avere un incarico in un comitato di Palazzo Chigi anche alla figlia. E per queste modalità familistiche sistematiche, scrive il GIP, il generale ex Sismi è ai domiciliari come Bisignani, che ci torna per false fatture emesse, secondo gli inquirenti, dopo aver già patteggiato altre accuse nell'inchiesta P4. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo ancora di Marò, perché un lungo applauso ha salutato le mogli dei due fucilieri presenti alla Camera. Oggi il nuovo esecutivo sta pensando a iniziative ad hoc, mentre la Presidente della Camera Boldrini intende sollecitare sulla questione il Parlamento europeo. E al via oggi la settimana della moda, un settore che chiede maggiore attenzione da parte del mondo politico. Allora sentiamo Frida Giannini, direttrice creativa di Gucci, al microfono di Paola Bottelli. Mentre ci sono le sfilate in questi giorni a Milano, il Matteo Renzi, un fiorentino doc, sta cercando di formare un nuovo governo. Che cosa si può aspettare l'industria della moda da un nuovo governo? Ma io quello che mi aspetterei di più è che finalmente l'industria della moda venga apprezzata e considerata come una delle industrie più importanti che abbiamo in Italia e che quindi debba essere supportata in tutte le maniere possibili e immaginabili, quindi meno ministeriali e meno burocrazia, perché spesso si pensa alla moda come a un negozietto e a un vestitino, ma qui c'è un indotto di lavoro che fa mandare avanti un intero paese e a volte ci si dimentica questo aspetto della moda, invece è una delle industrie più importanti, così come quella del turismo. Io mi auguro che questi due aspetti non vengano dimenticati, come sono stati dimenticati per tanti anni. E stasera seconda serata di Sanremo, sono stati 10.938.000 con un share del 45,93% i telespettatori che hanno seguito ieri su Rai 1 la prima serata. Pare che sia in calo per gli ascolti, ma ne parleremo più tardi. Invece adesso spostiamoci sullo sport, quello invernale, quello delle Olimpiadi di Sochi, con Maria Pia Valls Beltran, che lì mi pare che ci siano stati dei buoni risultati anche oggi per l'Italia. Maria Pia. Assolutamente sì, degli ottimi risultati, perché arriviamo a quota 7 per quanto riguarda le medaglie grazie all'ottimo bronzo che ha davvero dell'impresa per quanto riguarda il biathlon, perché è stato conquistato di squadra da 4 dei nostri atleti e si trattava della staffetta mista, quindi due uomini e due donne, e per cui sicuramente grandissime emozioni. L'ultima buona e positiva emozione è stata quella di Carolina Kostner, che ha pattinato nel programma corto incantando veramente la giuria. È caduta Yulia Lipnitskaya, che era la grandissima attesa eroina proprio dei russi, 15 anni solo per lei, e quindi Carolina arriva terza, ma sono pochi decimi di distanza di valutazione dalla prima e dalla seconda, per cui per domani, quando ci sarà la finale, è davvero tutto perfetto, per cui incrociamo le dita e ovviamente sentiamo cosa ha detto Carolina appena dopo la sua gara. Sono contenta, so che è solo metà della gara, quindi non ci penso tanto, riposo, spero di dormire bene e domani si va avanti. Bello, un onore a vestire la maglia d'Italia. Ebbene, affidiamoci allora a Carolina per domani. Grazie Maria Pia Valls Beltran. Ciao, a domani. Grazie a voi, ciao, a domani. Sempre sport, ma con Dario Ricci, c'è la Champions, questa sera il Milan a San Siro. Dario. Sì, buonasera Roberta, 30° di gioco a San Siro, tra Milan e Atletico Madrid, ma il Milan che non ti aspetti, ci aspettavamo appunto. Invece tutta un'altra partita, all'inizio ha sofferto un po', ma poi è andato per ben due occasioni vicinissimo al gol, prima al 15° con la traversa colpita da Kakà con uno splendido sinistro a giro, la deviazione di Courtois, portiere dell'Atletico Madrid, decisiva, 3 minuti al 16° cross di Taras, colpo di testa di Poli, vede ancora Courtois stavolta sul palo, e pochi istanti fa il fatto che avete sentito è stato su un destro, ancora una volta è effettato di Kakà, che è andato di pochissimo oltre la traversa, quindi 31° di gioco, Milan 0, Atletico Madrid 0, ma davvero un Milan sorprendente e non ancora vincente, ma la partita è ancora lunga. Certo, grazie Zero Ricci, ha sofferto un po' il Milan, ha sofferto anche la linea, scusate, insomma, direttamente a San Siro non è sempre facile avere un collegamento chiaro e lineare. Adesso però chiari e lineari saranno aggiornamenti per chi viaggia, poi voi continuate a esprimere le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte e se volete anche ai messaggi al 349-238-6666 sulle vostre impressioni relative a questo incontro-scontro che c'è stato oggi, questo duello in streaming tra Renzi e Grillo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccomi prontamente con voi, allora adesso Roberta Giordano, sempre con voi, ricominceremo a affrontare gli argomenti, prima così in sintesi nel primo quarto d'ora, adesso mi soffermerei giustamente su le consultazioni di Renzi, in particolare quello che è avvenuto oggi, che ha del interessante molto anche dal punto di vista della comunicazione, visto che i tempi sono cambiati, cambia anche lo stile, il linguaggio nel comunicare dei politici e mi sembra che tra Renzi e Grillo sia una bella sfida, anche naturalmente se con punti di vista diversi, ma intanto vi ricordo prima di salutare i primi ospiti quali sono stati i fatti principali della giornata. Con Renzi che si è mosso nelle ultime consultazioni oggi, tra le quali quella con Grillo, che insomma è stato un po' un duello in streaming, Renzi comunque ottimista, dice ci sono le condizioni, per sabato è pronta la squadra. E poi c'è la telefonata di Papa Francesco a Letta, un commiato cordiale e affettuoso, dice l'ex presidente del Consiglio. In Ucraina il paese è sempre in fiamme, Stati Uniti e Unione Europea avvertono, siamo pronti alle sanzioni, sono 26 le vittime negli ultimi bilanci degli scontri. Mafia, Raffaele Lombardo condannato a 6 anni e 8 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa. Alle Olimpiadi di Sochi arriva dalla staffetta di biathlon la 7ª medaglia azzurra e domani in finale Caroline Kostner. Per il calcio avete sentito a San Siro il Milan che sfida l'Atletico Madrid. E allora a questo punto soffermiamoci su questo esempio di incontro e di comunicazione davvero particolare che è in un modo emblematico un segno dei tempi. Saluto subito Elisabetta Gualmini, bentornata professoressa. Buonasera. Presidente dell'Istituto Cattaneo, politologa molto nota, docente di scienze dell'amministrazione all'Università di Bologna e Giovanna Cosenza, bentornata anche a lei. Buonasera. Buonasera, docente di semiotica all'Università di Bologna, fra le pubblicazioni più recenti Spot Politik. Bene, ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori che non avessero assistito a questo colloquio, diciamo così, di oggi, l'incontro tra il premier incaricato e la delegazione del Movimento 5 Stelle nell'ambito delle consultazioni per formare il nuovo governo, in realtà non ha affrontato un solo punto di quella che viene definita la roadmap dell'esecutivo e neppure nessuna eventuale proposta o controproposta del Movimento 5 Stelle. Tra Renzi e Grillo è stato un po' un unico botta e risposta giocato sulle battute reciproche. Ci sono stati in realtà 4 senatori del Movimento 5 Stelle critici con Grillo, perché sapete che ieri c'è stato un sondaggio sul blog di Grillo, chiedevano ai sostenitori, ai attivisti eccetera, ai simpatizzanti del Movimento 5 Stelle se ritenevano giusto che Grillo partecipasse alle consultazioni di Renzi oppure no. Hanno vinto i sì e poi oggi c'è stato questo epilogo. Lei, professoressa Gualmini, che impressione ne ha avuta? Ma dunque, è stato un incontro abbastanza inutile, nel senso che mi aspettavo più o meno, diciamo, la modalità a cui abbiamo assistito. Grillo è andato di controvoglia, a mio parere, è dovuto andare perché, diciamo, 400 persone hanno spostato l'equilibrio tra i sì e i no, nel senso che hanno votato in più a favore del sì e quindi è dovuto andare. Ha tenuto il suo solito comizio, quindi recitando il copione della guerra, della battaglia contro tutti e contro tutto e dicendo quello che dice sempre, cioè che Renzi rappresenta un sistema contro il quale il Movimento 5 Stelle si muove, quindi non è credibile in quanto proprio legato ai vecchi partiti. Renzi, secondo me, voglio dire, ha resistito, non ha perso il controllo, cosa che poteva capitare, e dopo la cosa si è chiusa in fretta, quindi non penso che sposterà nulla né in termini di voti né in termini di consenso. Penso che Renzi comunque comunque avrà un'opposizione piuttosto dura da parte del Movimento 5 Stelle, così come è successo per Letta, e ne penso che questo per l'elettorato di Grillo sia fondamentale, insomma. Ma secondo lei, professoressa, è stata un'occasione perduta per Grillo, oppure rispetto alla sua base ha agito nel modo in cui i suoi elettori si aspettavano? Ma guardi, ho letto moltissimi commenti anche sul web, e devo dire appunto che il popolo del web, il popolo di Grillo, l'ho trovato un po' spaccato a metà. Sicuramente ci sono quelli che si sono lamentati per l'ennesima occasione mancata, però ci sono anche quelli che in realtà hanno appoggiato il fatto che ancora una volta Grillo ha rivendicato, diciamo, l'inossidabile diversità del Movimento 5 Stelle dal resto del mondo. Quindi, e poi consideriamo che hanno votato in 40.000 sugli 85.000 iscritti al web e su più di 8 milioni di elettori di Grillo, quindi è una nicchia molto piccola quella iperattiva sul web, e solo per 400 voti hanno vinto i sì. Sì, oggi c'erano alcune lamentele sulla rete, ma non penso che questo voglia dire un esito negativo, un ridimensionamento del Movimento di Grillo, assolutamente. Sto leggendo alcuni messaggi anche mentre ascolto il professor Gualmini. Per esempio Pasquale dice: tifo Renzi ma ha vinto Grillo, dopo le dichiarazioni che Renzi fece sull'incontro Bersani-Grillo mi ha deluso, doveva aspettarselo, anche se molti dicono Renzi, anche se non fosse andato, avrebbe sbagliato comunque andando, ha sbagliato non andando, lo avrebbero criticato. Giovanna Cosenza, chi ha vinto tra Renzi e Grillo, ed è stata un po' una cosa simile dal punto di vista della comunicazione anche dell'immagine a quella tra Bersani e Grillo di un annetto fa? Ma dunque, semplicemente è stato un incontro in cui ognuno dei due parlava ai suoi, questo è il modo in cui l'ho letto io, per cui faccio un po' fatica a dire chi ha vinto, chi ha perso, perché effettivamente, ma magari dico in altri termini quello che ha espresso prima Elisabetta Gualmini, sposta poco, perché Grillo cosa ha fatto? Ha trovato il modo per esserci, a esserci. 40.000 hanno votato, erano perfettamente spaccati a metà, diciamo per una manciata di voti hanno scelto che lui andasse, e a quel punto andando doveva comunque parlare anche a coloro che volevano che non andasse, che erano metà, e sa che quei 40.000 in fondo rappresentano una spaccatura che è più estesa nell'elettorato del Movimento 5 Stelle. Quindi lui ha fatto questa cosa che era l'unica scelta possibile, essere coerente con se stesso, essere lì senza esserci, cioè suonargliele, cantargliele, come peraltro anche coloro che avevano scelto che lui ci fosse spesso avevano detto, perché molti dei commenti bisogna andare, bisogna suonargliele, cantargliele, e quello che lui ha fatto. Dopodiché, come l'ha fatto? Con tecnica tipicamente televisiva, che Grillo conosce molto bene, dar sulla voce dell'altro, è qualcosa che conosciamo tutti dai talk show degli anni 90, maestro fu Sgarbi, uno dei primi. Si sale con la voce sull'altro e si impedisce proprio di sentire anche la voce dell'altro, ricordiamo tutti il capra, capra, capra, capra. Può stare antipatico Sgarbi quando fa così, però capra, capra, capra se lo ricordano tutti, e alla fine prevale e non si è sentito quello che diceva l'altro. In questo senso è maestro, e a un certo punto Grillo gliel'ha anche detto: guarda che io ho 40 anni di esperienza. E quindi mi ti mangio in un boccone, diciamo. Sentiamo proprio uno stralcio di questo incontro-scontro. Portiamo in discussione al Senato, sia al Senato, giusto? Il disegno di legge del Rio sulle province, su cui alla Camera voi vi siete espressi, avete fatto ostruzionismo. No, forse non avete fatto ostruzionismo. Avete votato contro, chiedo scusa. No, perfetto. Posso interrompere un sacco? Perché i piani, le programmi. Però fammelo dire prima, poi mi interrompi. Perché i programmi, non sono venuto qua a parlare di programmi. I programmi non sono in ballo. Si gioca un po' per uno, però bisogna parlare io, poi parlate. Facciamo un po' per uno per correttezza. No, no, non è possibile. No, mi fai finire di parlare. Io dico questo. Io sono venuto qua per dimostrarti qualcosa in una maniera educata, gioiosa, emotiva, appassionante, ed è la prima volta che mi succede di non dare la fiducia a una persona come te, ma non perché sei tu, per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa poi la smentisci il giorno dopo, sei un ragazzo giovane ma nello stesso tempo vecchio. Io ti ho preso molto in giro, se ti sei offeso mi dispiace, ci siamo fatti delle battute insieme. Sei un ragazzo giovane ma sei anche vecchio. Qualcuno accusa Renzi da tempo di questa doppia identità. Che dice professoressa Gualmini? sì, diciamo che Grillo qui ha beccato, ha azzeccato un punto fondamentale, cioè ha rinfacciato a Renzi il fatto di non aver mantenuto le promesse, quindi di dire mai al posto di Letta, mai senza passare per le urne, certo. Invece poi l'hai fatto. Allora, in questo momento in cui penso che anche l'opinione pubblica e forse anche un bel pezzo degli elettori del PD sono ancora spaesati e smarriti rispetto a questa staffetta in corsa, ecco, probabilmente Grillo ha voluto rinfacciare a Renzi questa appartenenza a un vecchio stile, alla vecchia politica. È chiaro che quanto più Renzi riuscirà a fare, tanto più riuscirà a far dimenticare appunto questo passaggio. Però ecco, Grillo non gliene ha fatta passare una, quindi sono molto d'accordo con quello che diceva Giovanna Cosenza, di fatto non l'ha fatto parlare. Io penso che Renzi non potesse diciamo esimersi dall'andare, cioè un presidente incaricato penso che debba ascoltare tutte le forze politiche, quindi non poteva rifiutarsi, per quel che ne so io, e anche se forse avrebbe voluto. Però le voglio far sentire, professoressa Guelmini, uno stralcio invece della conferenza stampa che Grillo ha fatto subito dopo questo brevissimo incontro con Renzi. Sentiamolo. Truffe semantiche, l'ultima è bellissima. Guardate che il mondo è rovesciato. Fanno una legge, chi inquina paga, era normale, di buon senso, chi inquina paga, vai a prenderli, hanno fallito, ma ci sono le persone, vai a vedere i loro capitali e incroci quattro dati. Abbiamo i software, sono tutti ingegneri. Non è un problema ricercare quelli che falliscono dopo aver devastato l'ambiente dei tuoi figli, dei miei figli, dei tuoi nipoti. Invece lo Stato dà un finanziamento. Chi inquina prende dei soldi. Se andate a vedere la legge, è meravigliosa, ma è straordinaria. Perché se non vai a leggerlo, c'è scritto, noi ti diamo dei soldi, centinaia di milioni a tu che hai inquinato, basta che tu metti in sicurezza il terreno che hai rovinato e la salute della gente. Metti in sicurezza o bonifichi. Non hanno messo e bonifichi. Da e a o vuol dire depistare migliaia, centinaia di milioni di euro da e a o. Dice a volte anche delle cose giuste Beppe Grillo, professoressa Guelmini, o no? Sì, questo è un tormentone, un evergreen di Beppe Grillo, cioè il fatto che le leggi siano completamente incomprensibili per i cittadini comuni e che quindi i suoi parlamentari sono oggi diventati in grado di andare a scovare anche quello che le leggi diciamo nascondono e non dicono. Poi insomma il fatto che dentro ai decreti appunto urgenti si metta dentro un po' di tutto sono cose assolutamente vere. Questo fa presagire che l'ostruzionismo da parte dei grillini continuerà e quindi quella di Renzi non sarà proprio una passeggiata. Che ne dice professoressa Cosenza della truffa semantica, come dice Grillo, e anche del fatto, le volevo chiedere, professoressa, a questo punto mi sembra, non so se è una caratteristica della politica contemporanea, poi magari non ho particolare memoria di quella che fa parte proprio del passato remoto, è una caratteristica quella di essere vincenti se si possiede un eloquio brillante, fulminante, come ha anticipato in parte Berlusconi, ma poi mi pare che l'abbiano affinata Renzi e Grillo, questa caratteristica. Sì, è una caratteristica dalla quale non si può prescindere ormai. Le tecniche di comunicazione, le tecniche della retorica, che peraltro sono antichissime, fanno parte del fare politica e diciamo è un autoinganno che per molti anni una parte politica italiana si è ripetuta, quella del fatto di evitare completamente qualunque tipo di orpello comunicativo, l'idea che la comunicazione fosse soltanto qualcosa di superficiale, che bastasse essere, no? Perché questo essere potesse in qualche maniera trasferirsi ai cittadini e alle cittadine. No, non è così, negli Stati Uniti, non è così in Europa. In Italia queste tecniche sono entrate in maniera massiccia ed esplicita con Silvio Berlusconi, il centro-sinistra è sempre stato molto recalcitrante, dopodiché adesso le cose sono cambiate con Matteo Renzi e con Beppe Grillo. A questo punto diciamo che come comunicatori in scena abbiamo, oltre a Berlusconi, anche questi due soggetti. Una bella gara. Non è un fatto di eloquio brillante, ma di un insieme più vasto, più complesso, certo, più articolato. Sì, sì. Ultima domanda a Elisabetta Gualmini, che so che ci deve lasciare, poi la professoressa Cosenza prosegue. A proposito del toto ministri, quindi andiamo proprio sul politico, sul concreto, sul governo che verrà, dovrebbe venire entro sabato. Oggi Renzi ha incontrato il governatore della Banca d'Italia Visco, qualcuno diceva forse l'ha incontrato perché è un papabile ministro dell'economia, ma che dice lei? Ma dunque, io tra l'altro ho molta stima di Visco, quindi secondo me sarebbe un bellissimo nome. Francamente non è ancora chiara la strada che prenderà Renzi, insomma c'è questa insistenza anche nei confronti di una figura politica per questo di Castero dell'economia, e quindi io penso che ancora non ci sia una decisione finale. Ecco, quello che vorrei dire è che tutta questa fretta, francamente, per compilare la lista dei ministri non me la spiego, nel senso che se in Germania ci hanno messo 3 mesi, voglio dire, anche se Renzi ci mette 1 settimana, 10 giorni, oltretutto nell'esecutivo di Letta non tutti i ministri hanno brillato, per cui francamente è bene che si prenda il tempo necessario per costruire una squadra davvero adeguata. E ormai si è affibbiato questo ruolo di decisionista, di quello che va veloce, quindi infatti Ormai lo deve mantenere. Grazie professoressa Gualmini, grazie a buona voi. Continuazione, a presto. Con Giovanna Cosenza ci sentiamo dopo e anche con voi. Leggo giusto alcuni dei tanti messaggi arrivati su Facebook. Enrico: penso che sia la prima volta che qualcuno dice in faccia a un politico come stanno le cose veramente. Antipatico, maleducato, populista, signori, la gente della strada parla così. E poi Andrea: mi spiace più per gli elettori del Movimento 5 Stelle, la maggioranza, credo, che so che sono in buona fede e che sono la forza del movimento. A loro, secondo me, dobbiamo dir grazie se alle ultime elezioni si è mosso qualcosa anche nel definire nuovi modelli politici, di comunicazione, eccetera. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi per continuare a raccontarvi la giornata, in particolare stando su questo tema, il tema di oggi per quanto riguarda almeno la politica italiana, questo duello in streaming tra Renzi e Grillo che si è concluso, diciamo, nulla di fatto almeno dal punto di vista di Renzi, probabilmente invece con soddisfazione dal punto di vista di Grillo. Vi ricordo allora quali sono stati i fatti principali. Renzi, presidente incaricato, dice ci sono le condizioni per il nuovo governo, sabato la squadra, scontro in streaming, vi dicevo, con Grillo, e il Cavaliere, intanto Berlusconi, apre sulle riforme. Papa Francesco telefona a Letta, il quale dice, l'ex presidente del Consiglio, dice un commiato cordiale e affettuoso. Ucraina in fiamme, regime minaccia di usare l'esercito, Mosca grida al colpo di Stato, e intanto Unione Europea e Stati Uniti pensano delle sanzioni e sale a 26 morti il bilancio degli scontri a Kiev. È stato condannato a 6 anni e 8 mesi Raffaele Lombardo, ex governatore della Sicilia, per concorso esterno in associazione mafiosa. Alle Olimpiadi di Sochi arriva dalla staffetta di biathlon la 7ª medaglia azzurra, e per il calcio 0-0 nella Champions tra Milan a San Siro e l'Atletico Madrid. Allora, è sempre con noi Giovanna Cosenza, docente di semiotica all'Università di Bologna. Ci ha raggiunto anche Gianluca Nicoletti al telefono, naturalmente. Ciao Gianluca. Ciao, buonasera. Allora, io farei sentire, abbiamo fatti sentire prima alcuni stralci di questo colloquio fatto di botte e risposta e di battute piuttosto argute tra Grillo e Renzi, e farei sentire un altro pezzo. Tu parli di Europa, ma l'Europa va cambiata. Beh, perché si cambia in Europa, scusa, per cambiare l'Italia. Ci arriviamo subito su tutti i punti, ti chiedo ma soltanto io non voglio. Scusa. No, però questo non è il trailer del tuo show, Beppe. No, non è uno show. Non so se sei in difficoltà sulla prevendita. Ma vorrei che prima tu ascoltassi. Se sei in difficoltà sulla prevendita, sì, ti diamo una mi mano. Mi dai una mano, dai. Questo, fammi una cortesia. Questo non è Sanremo. Ma ti mando degli omaggio. Questo, no, ma lascia stare. Il fatto di dire i tuoi programmi, tu sei una persona non credibile. Benissimo. Quindi perfetto. Qualsiasi cosa dici non è credibile. Benissimo. Da parte mia e da parte nostra. C'è sempre la pagina Facebook per i vostri messaggi, ne vedo diversi, adesso continuerò a leggerli, ma volevo chiederle, professoressa Giovanna Cosenza, prima dicevamo che adesso la comunicazione, la capacità comunicativa conta moltissimo, l'eloquio, il possesso della lingua, non solo quello, diceva, molto più complesso, però anche forse il fatto di declinarla più verso l'umorismo, l'ironia, più di una volta, forse più che nel passato. E per fortuna, perché l'ironia stempera tutto, inclusa l'aggressività, persino l'aggressività verbale di Grillo, se non è estrapolata dal contesto, e si capisce spesso che è diciamo seguita da una risata. Però un esempio nel brano che abbiamo sentito prima di queste tecniche di comunicazione l'ha messo in atto Renzi, tanto per fare un pochino il punto, quando a un certo punto cosa ha detto? Cos'è un trailer? Ha tentato di uscire dalla difficoltà metacomunicando, cioè anziché parlare di contenuti ha parlato di ciò che stava accadendo. Naturalmente l'altro che la sa questa cosa e la sa anche più lunga non gliel'ha permesso e ha giocato sulla metacomunicazione mettendolo in buca, perché poi lo ha preso in giro. E quindi torniamo al discorso che diceva lei, l'arguzia, la battuta. E su questo però, quando si arriva a questo, chiaramente Grillo è un comico e quindi non c'è partita. Gianluca Nicoletti, notissimo conduttore di Radio 24, non solo Melog, Cronache Quotidiane tutti i giorni alle 12:30, è anche grande esperto di comunicazione. Tu come l'hai vista questa partita a tennis di oggi? Ma è stato divertente, perché c'è stato un netto prevalere dei media intesi come oggetti, come modalità di comunicazione rispetto alla comunicazione stessa. Ne sono stati sopraffatti persino i due protagonisti. Partiamo per ordine. Lo streaming. Ti obbligo a partecipare allo streaming. Ma cosa vuol dire? Che è una cosa moderna lo streaming. La Real Networks ha cominciato a fare streaming nel 1996. Stai parlando degli Stati Uniti? Ma sicuro, ma no, è tutto il mondo. Il primo Real Player, mi ricordo, fu nel 96. Mandavamo le prime trasmissioni radio in streaming. Non è che è una cosa nuova. C'è da qualche annetto. Non capisco. La dimostrazione di trasparenza che far vedere un pezzetto di evento in streaming era un chiaro trappolone, ma palese. Certo, Renzi ci è cascato a piedi pari, perché è logico che stava nel suo humus personale Grillo rappresentava un evento, perché infatti faceva questa cretinata di mandare 5 minuti di consultazione in streaming, quindi tutti i media puntati sullo streaming, quindi l'abbiamo anche trasmesso noi in diretta, giustamente, perché era notizia, l'ha trasmesso Sky TG24 in diretta, quindi abbiamo visto tutti Renzi alle corde. Era come una persona che non sapesse nuotare, che accetta di battersi con un provetto nuotatore. È chiaro che in quel clima Grilli proprio l'ha distrutto, non aveva possibilità di uscirne. Però è stato bravo Renzi, è stato bravo, perché il round immediatamente successivo, ammesso che il primo lo attribuiamo a Grillo, ma per totale ingenuità del suo antagonista, è andato a batterlo, cercare di batterlo in un terreno che non era proprio congeniale, gli ha sparato quel tweet dietro, che era un tweet leggermente seminarista come contenuto, che però dimostrava che lui era veloce con lo smartphone, mentre l'altro appartiene a una vetero generazione di internet, lui comunque di questi giovanotti che hanno il tweet facile, quindi l'ha subito twittato, ma non perché il tweet se abbia un valore, ma perché 140 battute immediatamente sono entrate nelle agenzie di stampa, quindi sono diventate realtà. Quando sono trovati poi entrambi davanti ai giornalisti durante la conferenza stampa, Grillo ha fatto secondo me una caduta estrema, che ha depotenziato tutto il vantaggio che aveva nella prima parte. Grillo ha fatto prima il duro, lo spaccone con i giornalisti, l'ha trattati male, come fa ormai nel suo stile. Però quando i commessi si sono avvicinati per fargli capire che se ne doveva andare, ha fatto quasi un tentativo di resistenza passiva, come nelle manifestazioni degli anni 70, e tutti ci saremmo aspettati che andasse fino in fondo, cioè a bloccarsi, farsi portare via di forza, buttarsi per terra come fanno, non so, i pacifisti, come fanno le ragazzine a zinne nude contro Putin e via dicendo. No, non l'ha fatto, poi buono si è fatto prendere per sotto braccio e si è fatto portare via, quindi lì ha perso completamente. Rientra Renzi a questo punto, Renzi anche lì fa uno sbaglio e perde anche il vantaggio che aveva avuto con il tweet. Comincia con una battuta, un'altra battuta, non fa ridere nessuno, dovete pagare il biglietto per vedere questa roba. Non doveva fare battute Renzi in quel momento doveva entrare perfettamente nel suo ruolo. Lui è il presidente del Consiglio in quel momento, doveva fare la persona seria. Ha avuto a fare l'amicone dei giornalisti, quello che li conosceva, li chiamava per nome e via dicendo. E quindi sì, è vero, li chiamava per nome. Ha scivolato un po' anche lui, capisci? Gianluca, allora a questo proposito volevo chiedere un parere proprio di Giovanna Cosenza sul comportamento di Renzi. Secondo Nicoletti doveva fare il presidente del Consiglio, essere più istituzionale invece è stato un po' il suo gioco? Un pochino sì, cioè nel senso che la questione, sì, sono d'accordo, il tema di come usa Renzi alcune tecniche di comunicazione è che io le ho sempre viste un po' un po' le ostenta, e questo è ciò che infastidisce anche molto l'elettorato del PD, perché il PD si porta dietro quella tradizione per cui la comunicazione, le tecniche di comunicazione sono il male, quindi uno che le ostenta, no, ecco perché gli danno del berlusconiano in realtà. Ecco, quindi è da un po' invece sa di imparaticcio, questa cosa che evidenziava Gianluca Nicoletti lo dimostra, cioè non puoi con un comico, con uno che ha 40 anni di esperienza, come lo stesso Grillo ha detto, giocare sul suo stesso terreno, e se ti piace fare le battute come piace a Renzi fare in altri contesti, quello è il momento in cui non devi farlo assolutamente. In quel contesto, prima, durante e dopo, lo devi evitare, perché se no ti stai facendo, cacciando il boomerang in fronte. Ecco, in questo senso qui è come se lui fosse un pochino maldestro, e tanti altri casi mostrano questo sa un po' di imparaticcio, cioè lui queste cose le ha imparate, però poi dopo non sempre gli vengono bene. Gianluca Nicoletti, abbiamo ancora 30 secondi, 40 secondi per una chiusura. Chiaramente sì, è il tipico atteggiamento, è il rapporto che c'è tra un boy scout e un soldato vero. Il boy scout è l'imitazione del soldato, si mette pantaloni corti, la camicia vagamente militare, un cappello con foggia militare, accende il fuoco con i legnetti, ma non farà mai la guerra. Non puoi fare il battutista e fare il comico quando parte c'hai un vecchio consumatissimo, furbissimo, inattaccabile signore che di questo fa di mestiere. Grazie Gianluca Nicoletti, a domani alle 12.30 con Melo. Grazie Giovanna Cosenza, e per stasera ci siamo un po' soffermati un po' sullo stile comunicativo, visto che oggi ha avuto così predominanza. Poi continueremo a parlare di contenuti anche nei prossimi giorni. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso, mentre continuo a leggere i vostri messaggi, poi vediamo se c'è ancora tempo, concentriamoci invece sull'appuntamento di tutte le sere con l'Europa. Si parla di modificare le etichette per ridurre gli sprechi alimentari. In Europa 90 milioni di tonnellate all'anno di cibo finiscono nella pattumiera. In spregio questo verso chi soffre la fame, verso le risorse del pianeta e la gestione dei rifiuti. Il 40% del cibo viene sprecato nelle case, un altro 40% nell'industria alimentare e il restante tra campi e ristorazione. L'Unione Europea può intervenire solo fino a un certo punto, spiega Paola Testori Coggi, direttrice generale salute e consumatori della Commissione Europea, ma ci sta provando. Lavoriamo, dice, con un gruppo di attori della filiera alimentare che partecipano volontariamente a questo progetto contro gli sprechi, perché non c'è una legge su questo, spiega Testori Coggi, intervistata da Laura Bettini. Europa 24 notte. Verso le europee. Se noi guardiamo dove viene sprecato questo cibo, il cibo viene sprecato, il 40% avviene nelle case, il 40% del rifiuto alimentare è prodotto durante la produzione, quindi nell'industria alimentare, e poi il resto a livello dell'agricoltura, a livello poi dei ristoranti e del catering. Quindi noi abbiamo, attraverso un gruppo di lavoro dove gli attori, gli operatori partecipano volontariamente, perché non c'è una legge, quindi non è che noi per legge, ma noi lavoriamo con gli operatori, abbiamo identificato una serie di buone pratiche che abbiamo raccolto, che sono disponibili sul sito. Per quel che riguarda la produzione, vedo che si ritorna sulla annosa questione della consumare preferibilmente entro, cioè... o consumarsi entro la data di scadenza. C'è una data di scadenza su alcuni prodotti che sono quelli che non resistono, come per esempio i latticini, ma invece ci sono altri prodotti, come prendiamo una scatola di biscotti dove c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro, ma al di là di questa data il prodotto è sanissimo, soltanto che magari non sarà croccante. Su questo cosa si fa? Si mette sulla scatola una doppia scadenza? Questa è la legge europea che definisce questi due tipi di date, e noi stiamo lavorando con l'autorità per identificare meglio quali sono veramente i prodotti che hanno bisogno di una data di scadenza, e quindi focalizzarsi su quelli e invece eliminare molti dei prodotti dove invece non è necessario la data di scadenza. Quindi stiamo lavorando per modificare, diciamo, i regolamenti di applicazione di questa cosa della data. Questo tema si lega anche a quello, in generale forse possiamo dire, della salute dei cittadini europei, cioè per esempio quello delle porzioni, no? Tante volte porzioni sono troppo grosse, si può ripensare anche a questo aspetto con l'industria alimentare. Certo, questa è anche per esempio una buona pratica, quella di fare delle porzioni che si riferiscono proprio al consumo, però anche lì è legato anche al prezzo, quindi non bisogna poi che ridurre le porzioni voglia dire poi per il consumatore pagare di più una certa quantità di cibo. Ed è per questo che noi abbiamo lavorato con in questo gruppo di stakeholder, li chiamiamo in inglese, per definire delle buone pratiche che servano allo scopo di ridurre i rifiuti ma che poi non penalizzino il consumatore. Qui è tutta una questione di volontà dalle parti, perché anche questo non si può... È tutta una questione di volontà, è molto difficile operare per legge, perché qui siamo nel campo del marketing, siamo nel campo della catena di distribuzione, della logistica, quindi è molto difficile operare per legge, però direi che la sensibilizzazione oggi degli operatori, sia l'industria alimentare che le catene di distribuzione, esiste, proprio si è cominciati, perché ormai il problema del waste, che tra l'altro sarà uno dei temi dell'Expo 2015, quindi noi abbiamo 1 miliardo di persone che mangiano troppo, 1/3 del cibo che viene buttato via e abbiamo quasi 900 milioni che non mangiano abbastanza, quindi questo è proprio il paradosso, noi diciamo, dell'alimentazione. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Dopo l'appuntamento europeo, ancora qualcuno dei vostri tanti messaggi sul duello di oggi tra Grillo e Renzi. Tony dice: meglio il discorso che Grillo ha fatto dopo ai giornalisti nella conferenza stampa, per lo streaming avrei preferito ci andassero Di Maio o Morra. Massimiliano dice: penso che il PD si debba convincere che non ce la farà mai a tirare nella mala politica il Movimento 5 Stelle. Mentre Riccardo scrive: un Renzi determinato ai limiti della pazienza, ho visto disposto a un tavolo di confronto con un interlocutore privo di propositi costruttivi democratici. Anche tu, devo dire, mi dispiace farti un complimento, ma sei elegante. Sono bella. Sì, molto. L'elegante è la Litizzetto, c'è lì per noi la nostra inviata Marta Cagnola, Sanremo, prima serata che è andata così, anche se c'era una Litizzetto e una Carrà scoppiettanti, a parte tutti gli imprevisti, no Marta, il sipario, i precari. Roberta all'inizio era proprio partita un po' male, l'abbiamo parlato ieri sera, un inizio davvero faticoso per questo Sanremo. Gli ascolti in realtà hanno sostanzialmente più o meno tenuto 2 punti percentuali in calo rispetto alla prima serata dell'anno prima, ma si sa, insomma, questa televisione sta cambiando, quindi da un anno all'altro è proprio difficile ormai fare dei paragoni. Devo dire che questa seconda serata secondo me sta partendo in maniera molto più energica, insomma la scaletta è stata costruita in maniera meglio, più scoppiettante, come a volte succede. No, la seconda viene meglio, almeno su Sanremo. In realtà poi spesso si dice che gli ascolti di un'intera edizione si vedano dalla prima, è difficile se la prima serata va molto male risollevare poi l'intero festival. C'è da dire che sugli ascolti di questa seconda serata peserà la concomitanza del calcio, che si sa è l'unico evento che possa impensierire in realtà il vero festival, concorrente. Ecco. Senti, fatti salienti di stasera, dopo tutta la movimentazione di ieri, quali sono stati? Ma guarda, una sera particolarmente tranquilla, perché con una grandissima apertura di Piff, che è veramente stato irresistibile e ha preso un po' in giro Beppe Grillo, quindi Piff, insomma, ha giocato un po' col fuoco. Poi Claudio Santamaria, che sarà protagonista di una fiction nei panni del maestro Manzi. Senti, ma poi... ho visto mute perché ho il video spento, e delle ottantenni strepitose gemelle Kessler. Mamma mia, io non riuscirei mai a alzare la gamba come fanno loro a 78 anni, in fornissima, anzi in gambissima nel loro caso, e sono ancora due donne particolarmente, due donne straordinarie, anche se ti anticipo, tra poco toccherà a una sorpresa di Franca Valeri, quindi stiamo parlando veramente di donne fuori dal comune, non certo. Dimentichiamoci che insomma sono i 60 anni della televisione italiana, quindi per questo c'è tutta questa presenza insomma di persone anche un po' in là con gli anni, ma che hanno fatto la storia dello spettacolo, che ci sono rimaste tutte nel cuore. Almeno rimangono delle icone di gran classe. Senti, ma invece stasera che dovrebbe esserci il cantante ritenuto blasfemo? Allora sì, Rufus Wainwright, del quale io sono particolarmente fan, è ritenuto blasfemo per un brano, Gay Messiah, che in realtà risale a molti anni fa. Effettivamente quella messa in scena e quel testo di quella canzone furono particolarmente forti, però lui ha spiegato che si trattava di una metafora, lui voleva porre l'accento sull'uguaglianza dei diritti. Tra l'altro lui è stato anche molto carino, perché dice, insomma, io credo fermamente nell'istituzione del matrimonio, perché lui è sposato sposato con il suo compagno, ma è sposato felicemente da 9 anni, quindi insomma un esempio di matrimonio particolarmente duraturo. Almeno il suo è longevo. Marta, ci sentiamo domani a questo punto, vediamo come finirà questa serata e poi rivediamo invece la terza domani. Grazie intanto da Sanremo. Ciao Marta. Grazie Cagnola. Grazie a domani. Bene, la musica sale, la sigla, quindi vi devo proprio salutare, anche se sapete che torno sempre dopo per ricordarvi i fatti principali.